Bob non si era accorto di quel sentimento ingiurioso per cui Maggie stava facendo un intimo atto di contrizione, ma sorrise di piacere a questo simpatico elogio, specialmente perché venutogli da parte di una signorina che, come gli raccontò quella sera sua madre, aveva certi occhi straordinari che guardavano in un modo che gli facevano sentire chissà cosa. No, davvero. Non posso prenderle, disse Tom, ma non crediate che io apprezzi meno la vostra generosità se vi dico di no. Non voglio accettare niente da nessuno, farmi la mia strada col mio lavoro, e queste sovrane non mi sarebbero di grande aiuto, no, davvero, se anche le prendessi. Lasciate invece che vi stringa la mano. Tom tese la sua palma rosea, entro cui Bob non tardò a mettere la sua mano dura e callosa. Vi riporrò le sovrane nel sacchetto, disse Maggie, e voi tornerete a vederci quando avrete comprato le vostre mercanzie, Bob. È proprio come se fossi venuto a portarvi una cosa stravagante solo per farvela vedere, disse Bob con un'aria di scontento mentre Maggie gli restituiva il sacchetto. Se adesso me lo riporto via così, io sono un po' fanfarone, lo sapete, ma non un fanfarone di questa specie. È solo quando uno è un gran lavativo, un gran vigliacco, che io mi diverto a metterlo un po' nel sacco, ecco tutto. Va bene, ma non vi lasciate andare a fare delle prepotenze, Bob, disse Tom, altrimenti un giorno o l'altro finirà che passerete il segno. No, no, non sono il tipo, Mister Tom, disse Bob con aria di gaia confidenza. Non c'è nessuna legge contro le punture delle mosche. Se di quando in quando mi prendo gioco di uno stupido, tanto quello non diviene più furbo, ma Dio buono. Prendete una sovrana, tanto da comprare qualcosa per voi e per la signorina. Solo un ricordo, giusto per contraccambio del temperino. Mentre parlava, Bob posò la sovrana e poi tornò a legare risolutamente il suo sacco. Tom respinse quell'oro e disse: No, davvero, Bob, vi ringrazio di cuore, ma non posso accettare. E Maggie, prendendo la moneta tra le dita, la rese a Bob con tono più persuasivo. Adesso no, forse un'altra volta. Se mai Tom o il babbo avranno bisogno di un aiuto che voi possiate dare, ve lo faremo sapere, ne è vero Tom? È questo che voi volete, no? Che noi si conti sempre su di voi come su di un amico al quale si possa ricorrere. Sì o no, Bob? Sì, signorina, e grazie, disse Bob riprendendo la moneta con riluttanza. È questo che voglio, tutto quello che fa piacere a voi, e vi auguro la buona sera, signorina, e buona fortuna a voi, Mister Tom. E vi ringrazio di avermi stretta la mano per quanto non abbiate accettato i miei denari. L'entrata di Kezia, con tanto d'occhiacci, per domandare se poteva servire subito il tè, se no le tartine diventavano dure come mattoni, fu un opportuno arresto al fiotto delle parole di Bob e affrettò le sue riverenze di congedo. 7. Come una gallina si fa astuta. I giorni passavano. E Mr. Tulliver manifestava, perlomeno agli occhi del medico, dei sintomi sempre più accusati di un graduale ritorno alle condizioni normali. Gli impedimenti della paralisi perdevano a poco la loro ostinazione, e l'intelligenza ne andava emergendo con una lotta spasmodica come una creatura viva in atto di aprirsi la strada sotto una grande valanga di neve che continui a slittare e blocchi l'apertura appena praticata. Il tempo sarebbe parso trascinarsi lentamente per coloro che vegliavano accanto al letto, se esso fosse stato misurato soltanto dalle dubbie e lontane speranze che numeravano i minuti dentro quella camera. Ma era misurato per loro dal rapido avvicinarsi di un terrore che faceva parere troppo rapido il giungere delle notti. Mentre Mr. Tulliver stava lentamente riprendendosi, la sua sorte precipitava verso un'ora di più sensibili cambiamenti. I periti avevano compiuto il loro lavoro, così come un rispettabile armaiuolo prepara coscienziosamente il moschetto, che debitamente puntato da un braccio fermo troncherà una o due vite. Certificati, cambiali, registrate in cancelleria, decreti in vendita, sono le pallottole ramate o le bombe legali che non possono mai toccare un segno solo, anzi, debbono cadere con un ampio flagello. Così, intimamente legate sono queste nostre vite, che gli uomini hanno da scontare a vicenda i loro peccati. Così inevitabilmente diffusiva è la sofferenza umana, che perfino la giustizia fa le sue vittime. Né si può concepire un castigo che non si estenda di là dal suo obiettivo in una propagazione di immeritati patimenti. Al principio della seconda settimana di gennaio erano stati affissi per decreto della cancelleria i bandi di vendita del materiale agricolo e del bestiame di Mr. Tulliver, a cui doveva seguire la vendita del mulino e delle terre, da tenersi in opportuna ora pomeridiana a Leondoro. Il mugnaio stesso, inconsapevole del passare del tempo, si immaginava di essere tuttavia in quel primo periodo della sua disgrazia, quando si poteva ancora pensare a trovare degli espedienti, e spesso, nelle ore di lucidità, parlava in una certa maniera debole ed incoerente dei disegni che avrebbero posto ad effetto quando sarebbe stato bene. La moglie e i figli non erano senza speranza di una soluzione che avrebbe perlomeno salvato Mr. Tulliver dal dover lasciare la sua vecchia casa e farsi una vita completamente diversa. Effettivamente, zio Dian era stato indotto a interessarsi a questa fase delle trattative. Per la Guest & Co. non sarebbe stata una cattiva speculazione. Lo riconosceva anche lui, di comperare il mulino di Dorlcote e sviluppare l'affare, che era buono e poteva essere allargato con l'applicazione del vapore, nel qual caso Tulliver poteva essere tenuto come gerente. Tuttavia, Mr. Dean non voleva dire nulla di decisivo a questo riguardo. Il fatto che Wakem avesse l'ipoteca sulla terra poteva mettere in testa a costui di fare un'offerta per tutta la proprietà, e peggio ancora, di rialzare l'offerta alla prudente ditta Guest & Co., che non si imbarcava negli affari per ragioni sentimentali. Mr. Dean fu obbligato a parlare un po' di queste cose con Mrs. Tulliver quando venne al mulino per verificare i libri in compagnia di Mr. Glegg, perché ella aveva osservato che se la Guest & Co. voleva ben rifletterci, il padre e il nonno di Mr. Tulliver avevano esercito il mulino di Dorlcote molto tempo prima che a quella ditta fosse venuta soltanto l'idea di impiantare il proprio mulino a olio. Mr. Dean, in risposta, espose il dubbio che fosse proprio il rapporto di anzianità tra i due mulini a determinare il loro valore come impiego di capitale. Quanto a zio Glegg, la cosa sorpassava tutti i poteri della sua immaginazione. Il bravo uomo sentiva una sincera pietà per la famiglia Tulliver, ma il suo denaro era tutto investito in ottime ipoteche, né egli voleva correre rischi, che questo sarebbe stato poco leale verso i suoi parenti. Ma gli venne in mente che Tulliver poteva portare certi nuovi panciotti di flanella ai quali egli aveva rinunciato in favore di indumenti più elastici, e che di quando in quando avrebbe potuto comprare una libbra di tè per Mrs. Tulliver, e nella sua benevolenza già pregustava la visita in cui avrebbe portato quel tè e si sarebbe goduto la gioia che la cognata proverebbe a sentirsi assicurare che era tè nero di prima qualità. Comunque era chiaro che Mr. Dean era ben disposto verso i Tulliver. Un giorno egli aveva condotta con sé Lucy, venuta a casa per le vacanze di Natale, e quella bionda testolina di Angelo si era stretta alle guance più scure di Maggie con molti baci e qualche lacrima. Queste belle, dolci figlie tengono un posto tenero nel cuore di non pochi rispettabili soci di rispettabili ditte. E forse le ansiose e compassionevoli domande di Lucy sui suoi poveri cugini contribuirono a rendere zio Dean più pronto nel trovare a Tom un impiego provvisorio ai magazzini e dargli modo di prendere ogni sera delle lezioni di ragioneria e di contabilità, il che avrebbe potuto rallegrare il ragazzo e risollevarne un poco le speranze se proprio in quel tempo non fosse scoppiato il colpo tanto temuto di apprendere che dopo tutto suo padre doveva essere dichiarato in bancarotta, o quantomeno i creditori dovevano essere convocati a concordare al di sotto del 100%. La qualcosa per Tom, che era poco versato nei termini tecnici, era lo stesso che una bancarotta. Di suo padre non si sarebbe soltanto dovuto dire che aveva perduto i propri averi, ma che era fallito, parola che nella mente di Tom implicava il massimo della vergogna. Di fatto, pagate le spese degli avvocati, sarebbe rimasta ancora l'amichevole cambialetta di Mr. Gore e il disavanzo in banca, nonché altri debiti che avrebbero ridotto l'attivo a un indiscutibile sbilancio. Non più di 10 o 12 scellini per ogni sterlina, prediceva Mr. Dean in tono deciso, stringendo le labbra, e queste parole cadevano su Tom come un liquido scottante che lasciasse un continuo dolore. Aveva un disperato bisogno di qualche cosa che potesse un poco sostenerlo nella dolorosa novità della sua posizione, che dalla agevole e feltrata noia delle ore di studio presso Mr. Stelling e dall'ozio dell'ultimo semestre di scuola, tutto speso a far castelli in aria, lo trasportava di colpo nell'ambiente dei sacchi e del cuoio, tra uomini schiamazzanti che buttavan giù al suo fianco i loro grevi carichi con un fragore di tuono. Il primo passo per far carriera nel mondo era un lavorare tra il freddo, la sporcizia e il fracasso che lo obbligava a uscire prima del tè per trovarsi St. Ogg's a prendere una lezione serale da un vecchio commesso monco d'un braccio, in una stanza che puzzava terribilmente di cattivo tabacco. Il giovane volto bianco e roseo di Tom aveva perduto parecchio del suo colorito. Nell'ora in cui egli deponeva il cappello a casa e si sedeva con pungente appetito davanti alla sua cena, nessuna meraviglia che egli fosse un po' aspro quando sua madre o Maggie gli rivolgevano la parola. Ma in tutto questo tempo Mrs. Tulliver era venuta ventilando un progetto mediante il quale lei e non altri, avrebbe scongiurato le conseguenze più temibili e impedito che Wakem si incaponisse a fare un'offerta per il mulino. Immaginatevi una gallinella perfettamente degna e gentile che per qualche funesta anomalia si metta a riflettere e a inventare delle combinazioni con cui possa forzare il massaio a non torcerle il collo oppure a non mandare al mercato né lei né i suoi pulcini. Non raggiungerà altro risultato che un grande scoccodare e starnazzare. Mrs. Tulliver, vedendo che ogni cosa era andata male, aveva cominciato a pensare che in tutta la sua vita lei era stata troppo passiva e che se si fosse applicata agli affari, prendendo ogni tanto qualche energica risoluzione, tutto sarebbe andato meglio per lei e per la sua famiglia. Nessuno, a quanto pareva, aveva pensato di andare da Wakem a parlargli di questo affare del mulino. Mentre invece, giudicava Mrs. Tulliver, questo sarebbe stato assolutamente il metodo più spiccio per garantirsi un buon esito. Certo, era inutile che ci fosse andato Mr. Tulliver, quando anche avesse voluto e potuto, perché aveva fatto causa contro Wakem e detto male di lui durante gli ultimi 10 anni. Era sempre probabile che Wakem gli serbasse rancore. Ma adesso, era giunta alla conclusione che suo marito aveva avuto torto marcio a metterla in simili fastidi. Mrs. Tulliver era incline a pensare che anche quei giudizi su Wakem erano completamente sbagliati. Per certo, Wakem aveva messo gli usciere in casa e provocato la vendita, ma ella supponeva che l'avesse fatto per compiacere la persona che aveva imprestato il denaro a Mr. Tulliver, perché un avvocato ha sempre più di una persona a cui deve far piacere, e non era presumibile che gli dimostrasse delle preferenze a Mr. Tulliver, dal momento che questi aveva fatto causa contro di lui. L'avvocato poteva essere una persona ragionevolissima, perché no? Egli aveva sposata una Miss Clint e al tempo in cui Mrs. Tulliver aveva avuto notizia di quel matrimonio, nell'estate in cui portava la sua giacchetta di raso blu e non aveva ancora la minima idea di Mr. Tulliver, nulla di male le risultava sul conto di Wakem. E certamente verso di lei, che egli sapeva essere stata una Miss Dodson, era impossibile non nutrisse delle buone disposizioni. Una volta che gli fosse entrato bene in testa che lei, per parte sua, non aveva mai avuto voglia di fare delle cause e veramente, ora come ora, era più disposta ad accettare, su qualunque argomento, le vedute di Mr. Wakem che quelle di suo marito. Effettivamente, se l'avvocato vedeva una signora rispettabile come lei, disposta a dirgli delle buone parole, perché non doveva ascoltare le sue ragioni? Lei gli avrebbe presentato chiaramente la situazione, cosa che finora non era mai stata fatta, e Wakem non avrebbe più fatto la sua offerta per il mulino, per non offendere lei, una donna innocente, che con tutta probabilità aveva ballato con lui in gioventù, a casa del cavaliere Darley, a quei grandi balli in cui aveva tante volte danzato con dei giovanotti, dei quali non ricordava più il nome. Mrs. Tulliver si teneva in petto tutti questi ragionamenti perché ogni qualvolta aveva accennato a Mr. Dean e a Mr. Glegg che aveva in mente di andare a parlare personalmente a Wakem, quelli avevano risposto «No, no, no!» e «Via, via!» e «Lasciate stare, Wakem!» col tono di gente non certo disposta a prestare sincera attenzione a una più dettagliata esposizione dei suoi progetti. Tantomeno poi osava di far cenno del suo proposito a Tom e Maggie, perché i ragazzi erano sempre così contrari a tutto ciò che diceva la mamma. E Tom, ella aveva notato, nutriva contro Wakeham quasi altrettanto ostilità quanto suo padre. Ma questa insolita concentrazione di pensiero diede naturalmente a Mrs. Tulliver un insolito potere di astuzia e di risolutezza. E un giorno o due prima della vendita che doveva aver luogo a Leondoro, quando ormai non c'era più tempo da perdere, ella effettuò il suo piano mediante uno stratagemma. Si trattava di certe salamoie, una grande provvista di salamoie e di mostarde che Mrs. Tulliver possedeva e che Mr. Hindmarsh, il droghiere, avrebbe certamente acquistato se lei avesse trattato l'affare in un colloquio personale, sicché quel mattino sarebbe andata con Tom a St. Oaks. E quando Tom obiettò che per allora poteva anche lasciar perdere le salamoie, gli piaceva poco che venisse in città in quel momento, ella apparve così urtata da una tale condotta del figlio, che la contraddiceva a proposito delle salamoie da lei preparate secondo una ricetta di famiglia, ereditata dalla nonna, la quale era morta quando sua madre era ancora una bambina, che gli dovette rassegnarsi. E così fecero insieme la loro strada finché la madre girò verso Danish Street, dove Mr. Hindmarsh vendeva al minuto le sue salumerie, non lontano dall'ufficio di Mr. Wakeham. Il galantuomo non era ancora giunto nello studio. Mrs. Tulliver avrebbe avuto la compiacenza di accomodarsi accanto al fuoco nel suo ufficio particolare e di aspettarlo. Non ebbe da attendere a lungo l'arrivo del puntuale avvocato, che corrugò le ciglia, lanciando uno sguardo indagatore su quella grossa signora bionda, la quale si alzò, inchinandosi con deferenza. Era un uomo piuttosto alto, col naso aquilino e una abbondante capigliatura grigio ferro. Finora voi non avete mai veduto Mr. Wakeham, ed è possibile che vi domandiate se veramente egli fosse quel famoso mascalzone o quell'astuto, maligno nemico degli uomini onesti in generale e di Mr. Tulliver in particolare, quale era rappresentato dalla immagine o ritratto che abbiamo veduto esistere nella mente del mugnaio. È evidente che l'irascibile mugnaio era uomo da interpretare ogni colpo che casualmente lo sfiorasse come un attentato alla sua vita, e andava soggetto, in questo mondo sconcertante, a tali imbarazzi che, tenuto debito conto della sua infallibilità, richiedevano, per essere spiegati, l'ipotesi di un attivissimo intervento diabolico. È credibile pure che l'avvocato non fosse colpevole verso di lui più di quanto una macchina ingegnosa, che eseguisce il proprio lavoro con grande regolarità, sia colpevole verso l'imprudente, il quale, avventurandosi troppo vicino ad essa, è afferrato da una trasmissione o da qualcos'altro e improvvisamente convertito in una poltiglia inaspettata. Ma è veramente impossibile decidere una simile questione con un semplice sguardo alla persona. Le linee e le luci dell'umana fisionomia sono come altri simboli, non sempre facili a decifrarsi senza una chiave. In base ad una veduta a priori del naso aquilino di Mr. Wakeham, che tanto offendeva Mrs. Tulliver, non si poteva scorgere più mariuoleria che nella forma del suo colletto duro, quantunque anche questo, tal quale come il naso, potesse diventare carico di indizi sfavorevoli una volta accertata la sua malizia. Mrs. Tulliver, credo, disse Mr. Wakeham. Sì, signore, Elizabeth Dodson, da signorina. Accomodatevi, prego, avete qualche affare da espormi? Ebbene sì, signore, disse Mrs. Tulliver, cominciando a sentirsi allarmata del proprio coraggio, ora che veramente si trovava in presenza di quell'uomo formidabile e riflettendo che ancora non aveva fissato dentro di sé come cominciare. Mr. Wakeham mise le dita nelle tasche del panciotto e guardò verso di lei in silenzio. Spero, signore, ella cominciò finalmente, spero, signore, che voi non penserete che io vi serbi rancore perché mio marito ha perduto la causa. E sono venuti gli uscieri e la biancheria è stata venduta all'asta. No, mio Dio, perché io non sono stata allevata con questi principi. Sono sicura che vi ricordate di mio padre, signore, perché era amico intimo del cavalier Darley. E noi andavamo sempre là a ballare, noi, signorine Dodson. E nessuno era più guardato di noi, e giustamente, perché eravamo quattro, e voi sapete benissimo che Mrs. Glegg e Mrs. Dean sono mie sorelle. E per quel che riguarda l'intentar cause e perdere il denaro e vedersi vendere la propria roba prima di essere morti, Io non avevo mai sentito niente di simile avanti d'essermi sposata, e nemmeno dopo, per un bel pezzo. Non già che io sia responsabile della mia sfortuna, se sposandomi sono uscita dalla mia famiglia per entrare in un'altra dove c'erano dei sistemi differenti, e quanto all'essermi lasciata trascinare a dir male di voi, come certa altra gente, questo non mi è mai successo, signore, e nessuno può dir di me una cosa simile. Mrs. Tulliver scosse un poco il capo e guardò all'orlo del proprio fazzoletto. Non dubito di quanto affermate, Mrs. Tulliver, disse Mr. Wakem con fredda cortesia, ma avete qualcosa da domandarmi? Ebbene sì, signore, ecco quello che mi sono detta. Mi sono detta che voi naturalmente dovevate avere un certo risentimento e quanto a mio marito, che in questi 2 mesi non è stato più lui, io non voglio certo difenderlo d'essersi stato tanto scaldato per l'erigazione, ma c'è della gente peggiore di lui, il quale non ha mai avuto intenzione di far torto a nessuno, nemmeno di uno scellino e nemmeno di un penny, e se aveva la smania delle cause, che potevo farci io? Gli è preso un colpo, che pareva ne morisse quando ha ricevuto la lettera che diceva della vostra ipoteca sul terreno, ma sono sicura che voi vi condurrete da gentiluomo. Che significa tutto ciò, Mrs. Tulliver? Disse Wakem piuttosto duramente. Che avete da chiedermi? Ecco, signore, se voi sarete così buono, disse Mrs. Tulliver un poco trasalendo e parlando più precipitosamente, se foste così buono da non comperare il mulino e la terra. La terra non vale poi granché, ma mio marito sarebbe come pazzo se foste voi a possederla. Qualcosa come un nuovo pensiero balenò attraverso il viso di Mr. Wakem, mentre gli diceva: E chi vi ha detto che ho intenzione di comprarla? Ma, signore, non sono stata io a inventarmelo e nemmeno ci avrei pensato perché mio marito, che di leggi doveva intendersene, soleva sempre dire che gli avvocati non hanno mai bisogno di comprare nulla, né terreni né case, che tanto riescono sempre a metterci le mani sopra in qualche altro modo. E io pensavo che anche con voi sarebbe andata a finir così, signore, e non ho mai detto che foste uomo da fare il contrario. Ah, bene. E chi è che ha detto così? Disse Wakem aprendo il suo scrittoio, spostando parecchi oggetti con l'accompagnamento di un quasi impercettibile fischio. Ma, signore, sono stati Mr. Glegg e Mr. Dean che hanno tutta la direzione dell'affare. Mr. Dean è d'idea che la Guest & Co. potrebbe comprare il mulino, lasciandovi Mr. Tulliver a lavorare per loro conto, se voi con una vostra offerta non ne fate salire il prezzo. E sarebbe un gran vantaggio per mio marito di rimanere dov'è, se potesse guadagnarsi la vita, perché il mulino, prima che a lui, apparteneva a suo padre, apparteneva, ed era stato suo nonno a costruirlo. Tutto che a me il rumore del mulino non piacesse niente, in principio che ero sposata, perché di mulini non ce n'erano nella nostra famiglia, nella famiglia Dodson. E se io avessi saputo che coi mulini ci sono sempre delle cause per aria, non sarei stata certo io la prima delle Dodson a sposare un mugnaio. Ma mi ci sono buttata dentro alla cieca, ecco quel che ho fatto, con quella erigazione e con tutto il resto. Come? Se capisco bene, la Guest & Co. vorrebbe il mulino in proprio e darebbe uno stipendio a vostro marito? Dio mio, è ben doloroso, signore, disse la povera Mrs. Tulliver, mentre una piccola lacrima stava facendosi strada. Pensare che mio marito debba ricevere uno stipendio. Ma perlomeno le cose non parrebbero tanto cambiate se si rimanesse al mulino, invece di dover andare chissà dove. Pensateci un poco anche voi. Se fate un'offerta e comperate il mulino, mio marito ne avrà un colpo anche più forte di quello che ha già avuto e non si rimetterà mai più, mentre invece adesso pare che sia sulla strada. Bene, ma se io comperassi il mulino, permettendo a vostro marito di tenerne ugualmente la direzione, che ve ne parrebbe? Disse Mr. Wakem. Signor mio, temo che non si lascerebbe mai persuadere ad una cosa simile, nemmeno se il mulino si fermasse per pregarlo e supplicarlo. Perché il vostro nome è come veleno per lui, adesso più che mai, e crede che voi siate sempre stato la sua rovina, fin da quando avete messo la legge contro di lui per quell'affare della strada attraverso il prato. Sono ormai 8 anni, ma lui non ha voluto cambiare sistema, quantunque io gli abbia sempre detto che aveva torto. È un asino! Un pazzo svergognato, gridò Mr. Wakem perdendo le staffe. Santo cielo, signor mio, disse Mrs. Tulliver, spaventata da un risultato così differente da quello che si era messa in testa. Non vorrei contraddirvi, ma è probabile che gli abbia cambiato idea in questa malattia. Ha dimenticato tante cose di cui era solito parlare e a voi non piacerebbe certo di avere un cadavere sulla coscienza se gli dovesse morire. E poi dicono che porta sempre male quando il mulino di Dorlcote cambia di proprietario e che le acque potrebbero cambiare di corso. E allora, non che io voglia augurarvi del male, signore, perché mi sono dimenticata di dirvi che mi ricordo del vostro matrimonio come se fosse ieri. Mrs. Wakem era una Miss Clint, lo so benissimo, e mio figlio, che non c'è da nessuna parte un ragazzo più bello e simpatico e ben fatto, era in collegio col vostro. Mr. Wakem si alzò, aprì la porta e chiamò uno dei suoi giovani. Dovete scusarmi se vi interrompo, Mrs. Tulliver, ho un affare da sbrigare e credo che non abbiamo più nulla da dirci. Ma se voi voleste ricordarvi di queste cose, signore, disse Mrs. Tulliver alzandosi, e non agire contro di me e i miei figli, e non nego che Mr. Tulliver avesse torto, ma è abbastanza punito, e ci sono degli uomini peggiori, perché quel che agli altri capita per caso a lui è toccato per colpa sua. Lui non ha mai fatto male a nessuno tranne che a se stesso e alla propria famiglia, che fa ancora più pena. E tutti i giorni io vado a guardare i miei armadi vuoti pensando a tutte le cose mie che c'erano dentro. Sì, me ne ricorderò, disse Mr. Wakem frettolosamente, guardando verso la porta aperta. Se aveste la cortesia di non dire che sono venuta a parlarvi, perché mio figlio si arrabbierebbe molto che io mi sia così umiliata. Lo so benissimo, e ho già abbastanza fastidi anche senza essere sgridata dai miei figli. La voce della povera Mrs. Tulliver tremava. Ella non poté rispondere al buongiorno dell'avvocato, ma fece una riverenza e uscì in silenzio. Che giorno sarà messo in vendita il mulino di Dorlcote? Dov'è l'avviso? Disse Mr. Wakem al suo giovane quando furono soli. Venerdì prossimo, venerdì alle 6. Oh, correte subito da Winship il banditore a vedere se è in casa. Ho qualcosa da fare con lui. Ditegli di venire qui. Quantunque Mr. Wakem, entrando quel mattino nel suo studio, non avesse alcuna intenzione di comprare il mulino di Dorlcote, oramai il suo piano era fissato. Mrs. Tulliver gli aveva suggerito parecchie ragioni decisive e il suo colpo d'occhio era assai rapido. Era uno di quegli uomini che riescono a essere pronti senza essere incauti perché i loro motivi corrono su tracce prestabilite, senza che si abbiano bisogno di conciliare delle esigenze in conflitto. Supporre che Wakem avesse contro Tulliver la stessa specie di odio inveterato che Tulliver aveva contro di lui sarebbe come supporre che un luccio e un ghiozzo possano guardarsi a vicenda da un identico punto di vista. Di necessità, il ghiozzo detesta il modo come il luccio provvede al proprio nutrimento. E il luccio probabilmente non pensa a quel ghiozzo indignato che come a un cibo eccellente. Soltanto se il ghiozzo lo punga, il luccio può sentire una forte animosità personale. Se Mr. Tulliver l'avesse mai danneggiato o contrariato seriamente, allora Wakem non gli avrebbe rifiutato l'onore di erigerlo a speciale bersaglio della propria vendicatività. Ma quando Mr. Tulliver chiamava Wakem un briccone durante i pranzi dei giorni di mercato, i clienti dell'avvocato non si sentivano punto invogliati a togliergli le loro cause. E se quando Wakem capitava essere presente di persona qualche spassoso mercante di bestiame eccitato dall'occasione e dalla grappa gli lanciava una stoccata, alludendo a certi testamenti di vecchie signore, egli serbava un perfetto sang-froid, sapendo benissimo che la maggioranza degli uomini di qualche conto, là riuniti, erano perfettamente soddisfatti che Wakem fosse Wakem, cioè una persona che sapeva sempre quali erano le pietre su cui mettere i piedi per attraversare i passaggi più fangosi della professione. Una persona che si era fatta una grossa fortuna, che aveva fatto a Tofton una bella casa tra gli alberi e decisamente la miglior provvista di porto di tutta la contrada di St. Oaks. Doveva naturalmente sentirsi all'altezza della pubblica opinione. E non sono ben sicura che perfino l'onesto Mr. Tulliver, con la sua generale concezione della legge come d'un combattimento di galli, non avrebbe in circostanze opposte trovata bellamente esatta la verità che Wakem era Wakem. quando si sente dire da persone versate nella storia che l'umanità non ha l'abitudine di guardar tanto per il sottile la condotta dei grandi vincitori, purché la loro vittoria stia dalla parte giusta. Tulliver dunque non poteva essere un ostacolo per Wakem, tutt'al contrario era un povero diavolo che l'avvocato aveva più volte sconfitto, una testa calda che offriva sempre il destro di mettersi contro di lui. La coscienza di Wakem non provava disagio per le poche soperchierie perpetrate contro il mugnaio. Come avrebbe potuto odiare quel disgraziato attaccabrighe, quel toro furioso e miserando incappato nelle maglie di una rete? Tuttavia, tra i vari eccessi a cui l'umana natura va soggetta, i moralisti non hanno mai annoverato quello di sentirci troppo attaccati alla gente che apertamente ci ingiuria. Gli uomini fortunati si prendono di tanto in tanto una piccola vendetta, così come si prendono una distrazione quando capita comodamente a portata di mano senza intralciare i loro affari. E queste piccole, spassionate vendette hanno nella vita una portata enorme, offrendo a chi le infligge tutta la gamma delle soddisfazioni, sia che facciano perdere il posto all'individuo designato, sia che ne diffamino il carattere con un discorso non premeditato. Ancor più, il vedere della gente che non ci ha fatto se non delle offese insignificanti, degradata nel mondo ed umiliata senza alcuno sforzo speciale da parte nostra, può avere un'influenza consolatrice e lusinghiera. La provvidenza o qualche altro signore di questo mondo pare essersi assunta il compito di punire per noi, e in realtà, per un piacevole organamento delle cose, i nostri nemici, chissà perché, non riescono ad avere fortuna. Wakem non era immune da questo occasionale spirito di vendetta contro il mugnaio poco complimentoso, e adesso che era stata proprio Mrs. Tulliver a mettergliela in testa, l'idea di fare precisamente ciò che a Mr. Tulliver avrebbe cagionato più micidiale umiliazione gli si presentava come un piacere di natura complessa, non fatto solo di cruda perversità, ma mescolato col gusto di un'intima approvazione. Il vedere un nemico umiliato dà una certa contentezza, ma ancora sterile in confronto con la soddisfazione molto più raffinata di vederlo umiliato da una vostra azione benevola o da una concessione in suo favore. È questa una specie di vendetta che si ricopre con l'epidermide della virtù e Wakem aveva tutte le intenzioni di mantenere rispettabilmente salve le apparenze. Aveva avuto una volta il piacere di far entrare un suo vecchio nemico in uno degli ospizi di carità di St. Oaks, per la cui costruzione aveva sottoscritto una forte somma. Ed ecco che egli si presentava all'occasione di provvedere ad un altro nemico facendosene il proprio servitore. Simili cose conferiscono alla prosperità una certa completezza e le aggiungono gli elementi di una soddisfatta coscienza di sé, quali una gretta e miope vendicatività, sempre pronta a scagliare una diretta ingiuria e ad infierire, non riesce nemmeno a supporre. E Tulliver, con la sua lingua malefica rintuzzata da un sentimento di riconoscenza, sarebbe riuscito un servitore molto più perfetto di qualunque individuo che stesse occasionalmente brigando per un posto. Tulliver era conosciuto come uomo di fiera onestà e Wakem era troppo intelligente per non credere all'esistenza dell'onestà. Egli era portato a osservare gli individui, non già a giudicarli in base a massime generali, e nessuno meglio di lui sapeva che non tutti gli uomini erano fatti a sua somiglianza. Contava inoltre di sorvegliare molto da vicino tutto questo affare della terra e del mulino. Le cose attinenti alla pratica rurale lo appassionavano. Ma anche a parte ogni benevola vendetta contro il mugnaio, c'erano delle buone ragioni per comperare il mulino di Dorlcote. Si trattava di un vero e proprio impiego di capitale, per di più la Guest & Co. era in procinto di fare un'offerta. Mr. Guest e Mr. Wakem erano in ottimi rapporti di amicizia conviviale e l'avvocato aveva piacere di affermare la propria superiorità su un proprietario di bastimenti e di mulini che faceva sentire un po' troppo la sua voce, tanto negli affari cittadini quanto nei discorsi a tavola, perché Wakem non era soltanto un uomo d'affari, egli era considerato una piacevole compagnia nei circoli più elevati di St. Oaks. Conversava brillantemente accanto alla sua bottiglia di porto. Era un po' dilettante di agricoltura ed era stato certamente un ottimo marito e padre. In chiesa, quando ci andava, si sedeva ai piedi del più bello tra i monumenti murali, da lui eretto in memoria della propria moglie. Nella sua posizione, La maggioranza degli uomini si sarebbe risposata, ma si diceva che verso il suo figliuolo deforme gli avesse più tenerezza di quanta ne abbiano in generale i padri verso le proprie creature ben conformate. Non già che Mr. Wakem, oltre Philip, non avesse altri figli, ma con questi tratteneva dei rapporti di paternità più ambigui e provvedeva per loro, mettendoli in una posizione debitamente inferiore alla propria. E per dir tutto, in questo fatto andava appunto ricercata la ragione che lo decideva all'acquisto del mulino di Dorlcote. Mentre Mrs. Tulliver stava parlando, il furbo avvocato aveva, fra le altre circostanze del caso, intuito che l'acquisto poteva, qualche anno dopo, fornire una posizione egregiamente adatta a un certo ragazzo suo protetto, a cui egli contava di procurare un posto nel mondo. Erano queste le condizioni di spirito su cui Mrs. Tulliver aveva fatto assegnamento per un'azione persuasiva ed era fallita allo scopo, fatto che può ricevere qualche delucidazione dalla sentenza di un grande filosofo secondo il quale i pescatori alla lenza non riescono, nel preparare l'esca, a renderla abbastanza tentatrice perché non conoscono debitamente la natura soggettiva del pesce. 8. Il naufragio alla luce del sole. Era un chiaro, ghiacciato giorno di gennaio quando Mr. Tulliver scese per la prima volta al pian terreno. Il sole brillante sui rami del castagno e sui tetti di fronte alla sua finestra gli aveva fatto dichiarare con impazienza che non voleva rimanere più a lungo chiuso in gabbia. Pensava che, alla luce di quel sole, qualunque luogo sarebbe stato più gaio che la sua camera da letto, perché non sapeva nulla della desolazione del pian terreno che rendeva indiscreto quel fiotto di sole, quasi che esso provasse un maligno piacere a mostrare i posti vuoti e le tracce dei luoghi occupati un tempo dagli oggetti ben noti. L'impressione, fissatasi nel suo spirito, che la lettera di Mr. Gore gli fosse giunta solo il giorno prima, era così continuamente implicita nei suoi discorsi, e ogni tentativo di fargli entrare l'idea che molte settimane erano trascorse e molte cose da allora erano successe veniva così prontamente respinto dai ritorni della sua amnesia che perfino Mr. Turnbull aveva cominciato a disperare di poterlo predisporre ad affrontare i fatti con una preventiva preparazione. La piena coscienza del presente poteva soltanto venirgli instillata a grado da una nuova esperienza e non da semplici parole destinate a rimanere meno efficaci che le impressioni lasciate in lui dalla vecchia esperienza. La decisione di scendere da basso fu accolta con spavento dalla moglie e dai figli. Mrs. Tulliver disse a Tom di ritardare l'ora della sua andata a St. Oaks per attendere che il babbo fosse sceso, e Tom acconsentì, quantunque provasse nell'intimo un vivo raccapriccio per quella scena dolorosa. I cuori di tutti e tre erano stati, durante gli ultimi giorni, più profondamente depressi che mai. La Guest & Co. non aveva comperato il mulino. Mulino e terra erano stati aggiudicati a Wakem, il quale aveva superato tutte le aspettazioni, dichiarando davanti a Mr. Dean e a Mr. Glegg e in presenza di Mrs. Tulliver la propria volontà di impiegare Mr. Tulliver come gerente, ove egli si rimettesse in salute. Questa proposta aveva cagionato molti dibattiti familiari. Gli zii e le zie si trovarono quasi unanimi nell'opinione che una simile offerta non doveva essere rifiutata, quando nulla vi si opponeva, fuorché un sentimento personale di Mr. Tulliver. Sentimento che, non essendo condiviso né dalle zie né dagli zii, era considerato perfettamente illogico e puerile, come quello che in realtà non faceva che ritorcere contro Wakem lo sdegno e l'odio che più giustamente Mr. Tulliver avrebbe dovuto dirigere contro sé medesimo per la propria smania di litigare in genere e per il modo come l'aveva manifestata nella fattispecie, cacciandosi in quella causa. Ecco che si offriva a Mr. Tulliver l'occasione di poter provvedere alla propria moglie e alla propria figlia senza il soccorso dei parenti della moglie e senza precipitare troppo vistosamente in quello stato di miseria che rende sgradevole alla gente rispettabile il trovarsi di fronte ai parenti decaduti. Secondo Mrs. Glegg, era d'uopo far sentire a Mr. Tulliver, non appena recuperasse le proprie facoltà mentali, che egli non si sarebbe mai abbastanza umiliato perché gli era successo proprio quello che lei aveva sempre preveduto dovesse risultare dalla sua passata tracotanza contro i migliori congiunti su cui egli potesse contare. Mr. Glegg e Mr. Dean erano meno severi nelle loro vedute, ma pensavano entrambi che Mr. Tulliver aveva ormai combinato abbastanza guai con i ghiribizzi della sua testa calda e doveva poter fare a meno di loro dal momento che gli venivano offerti i mezzi di esistenza. Wakem, nella circostanza, mostrava dei buoni sentimenti. Non ne aveva lui della ruggine contro Tulliver. Tom aveva protestato contro l'accettazione della proposta. Non gli piaceva che suo padre stesse sotto Wakem. Pensava sarebbe stata un'orribile figura. Ma il più vivo dispiacere della mamma era quell'assoluta impossibilità di riuscire mai a far cambiare idea a Mr. Tulliver sul conto di Wakem, di indurlo a capire la ragione. No, piuttosto dovevano andare a vivere in un porcile, pur di poter continuare a odiare Wakem, il quale pure parlava che meglio non si sarebbe potuto. In realtà, la testa di Mrs. Tulliver era ridotta a un tale guazzabuglio dal vivere in quello strano ambiente pieno di inesplicabili affanni contro cui ella si rivoltava di continuo, domandando: Santo cielo, cosa ho mai fatto per meritare più male delle altre donne? Che Maggie cominciava a sospettare che il senno della sua povera mamma fosse proprio per andarsene. Tom, ella disse quando si trovarono insieme fuori della stanza del babbo. Dobbiamo tentare di far capire al babbo un po' di quello che è successo avanti che gli scenda. Ma bisogna portar via la mamma, altrimenti dirà qualche cosa che può fare del male. Prega Kezia che la chiami giù e che con una scusa qualunque la tenga impegnata in cucina. Kezia fu all'altezza della situazione, avendo dichiarato la propria intenzione di rimanere, salario o non salario, finché il padrone fosse di nuovo in piedi. Aveva trovato un certo compenso nel guidare con mano ferma la propria padrona, sgridandola perché si impietosiva di se stessa, e andava tutto il giorno in giro senza mai cambiarsi la cuffia. Aveva un'aria che pareva matta. Tutto sommato, questo tempo d'afflizione fu quasi un tempo di Saturnali per Kezia, che poteva rimproverare i suoi superiori con una libertà da nessuno biasimata. Quel giorno c'era da ritirare in casa della biancheria ad asciugare. Voleva un po' sapere lei se un solo paio di braccia bastavano a far tutto in casa e fuori, e osservò che a suo parere Mrs. Tulliver non ci avrebbe rimesso niente se si infilava il cappello e prendeva una boccata d'aria fresca, facendo un po' di quel lavoro necessario. La povera Mrs. Tulliver discese remissiva. Il ricevere degli ordini da una fantesca era tutto quel che le rimaneva della propria dignità di padrona di casa. Tra poco ella non avrebbe neppure più avuto una fantesca che la sgridasse. Mr. Tulliver si riposava un po' sulla sua poltrona dopo la fatica di essersi vestito e Maggie e Tom erano seduti accanto a lui quando entrò Luke a chiedere se poteva aiutare il padrone a discendere. Ehi, Luke, fermatevi qui un momento, sedetevi, disse Mr. Tulliver, indicandogli col bastone una sedia e fissandolo con quello sguardo dolce che i convalescenti hanno spesso verso chi li ha curati e che ricorda quello con cui i bambini tengono d'occhio la nutrice. Luke infatti aveva vegliato tutte le notti accanto al letto del suo padrone. Come va adesso l'acqua, eh Luke? Disse Mr. Tulliver. Dix non l'ha mica chiuso un'altra volta, eh? No, signore, tutto va bene. Lo credo anch'io. Non avrà più tanta premura di ricominciare ora che Riley l'ha messo a posto. Era appunto quel che dicevo ieri a Riley. Gli dicevo. Mr. Tulliver si chinò in avanti, appoggiando i gomiti ai braccioli della poltrona e guardando a terra come un uomo che si dibatta contro il sopore. Maggie fissava Tom con muta e distretta. La mente del babbo era così lontana da quel presente che tra breve sarebbe venuto a sgominare quell'errabondo lume di coscienza. Tom stava quasi per fuggire, con quell'incapacità di sopportare le emozioni dolorose che costituisce una delle differenze tra un giovane e una fanciulla, tra un uomo e una donna. Babbo, disse Maggie, posando la propria mano sulla sua, non ti ricordi che Mr. Riley è morto? Morto? Disse Mr. Tulliver prontamente, guardandola in viso con una strana occhiata interrogativa. Sì, babbo, è morto di apoplessia circa un anno fa. Mi ricordo di averti sentito dire che avevi da pagare una somma per lui e ha lasciato le sue figlie in cattive acque. Una di loro è assistente da Mrs. Firnis in quel collegio, sai, dove sono stata io. Ah, disse il padre sospettoso, seguitando a guardarla in volto. Ma appena Tom ebbe cominciato a parlare, si volse invece verso di lui col medesimo sguardo scrutatore, come se fosse alquanto sorpreso della presenza di questi due giovani. Tutte le volte che il suo spirito si aggirava nel lontano passato, egli cadeva in questo oblio del loro aspetto attuale, che non era più quello del ragazzetto e della piccina appartenenti a un tale passato. È trascorso tanto tempo, babbo, da quando hai avuto quella questione con Dix, disse Tom. Mi rammento che ne parlavi 3 anni fa, prima che io andassi in collegio da Mr. Stelling. E io sono stato in collegio appunto questi 3 anni, non ricordi? Mr. Tulliver tornò a buttarsi all'indietro, perdendo quello sguardo esteriore e puerile sotto un'ombra di idee nuove che lo distoglievano da ogni impressione esterna. Disse dopo un minuto o due, ho speso un sacco di quattrini, ma mi ero messo in testa che mio figlio dovesse avere una buona istruzione. Io non l'ho avuta e ne ho sentita la mancanza. Così non gli farà bisogno d'altra ricchezza. Questo è ciò che io dico. Se Wakem dovesse di nuovo vincerla su di me.